Adesso che le elezioni si sono regolarmente svolte, che chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, la Lombardia è stata consegnata inerme nelle mani del Pio Formigoni, posso finalmente occuparmi di quello che a mio avviso merita il titolo di manifesto cult di questa campagna elettorale. Mi riferisco, non me ne vogliate, a quello con cui il consigliere Prosperini, esponente di una destra del nord che a volte complode in nordestra, stranissimo neologismo coniato credo per indicare il fatto che il soggetto è passato dalla Lega ad Alleanza Nazionale, in cui il consigliere Prosperini si è fatto raffigurare nelle vesti di un antico guerriero in armatura. Si tratta di un documento dal punto di vista iconico straordinario. Il candidato, pur senza elmo per ovvi motivi di riconoscibilità, vi figura rivestito fino al collo di acciaio brunito, come sulla copertina di un romanzo del fantasy, nell'atto di brandire lo spadone con il quale in difesa del cittadino elettore ha fatto e farà strage di nemici. Ammucchiate i suoi piedi, in effetti, giacciono le armature degli avversari, rappresentati come specificano appositi cartigli dalla clandestinità, dall'abusivismo, dai centri sociali, dalla criminalità, dal terrorismo e altre consimili piaghe. La facciata del Duomo di Milano sullo sfondo non lascia dubbi sull'ambientazione in terra lombarda della virtuosa ecatombe. Ed è un peccato che se ne siano viste affisse pochissime copie, di solito lacerate ad opera di oppositori di scarsa tolleranza e di pochissimo addentro ai misteri della comunicazione politica, perché se lo fossero avrebbero capito subito che da un'esposizione siffatta la parte prosperiniana avrebbe tratto più danno che da una battaglia perduta. A prescindere da questi altri possibili giudizi di merito, tuttavia, quel manifesto mi ha fatto una gran tenerezza. Mi ha ricordato le campagne elettorali di una volta, quando in assenza di televisione e talk show i muri fiorivano di immagini, allegorie, caricature di ogni tipo. I candidati non affidavano le proprie speranze solo a quegli insulsi fotocolor che usano oggi, ma a pittoresche raffigurazioni di cosacchi abbeveranti i cavalli in piazza San Pietro o capitalisti in cilindro con il segno del dollaro intendi a strappare il pane di bocca ad orfani smunte e vedove macilente. Si vede che il Prosperini, che pure quanto ad abuso del fotocolor non scherza, viene anche lui da quegli anni. E tra i vari spunti allegorici offerti dal repertorio ne ha scelto uno che anche allora andava piuttosto forte, quello dell'eroe che uccide il mostro, anzi nel caso i mostri. Va considerato naturalmente anche il fatto che il consigliere, nonostante l'apparente rozzezza ideologica, non è uomo privo di cultura, è un medico con tanto di specializzazione, mi sembra, in dermatologia, il che spiega, tra parentesi, la sicurezza della diagnosi con cui riuscì anni fa a infiammare un'assemblea di partito, annunciando ai convenuti che i comunisti, diciamolo pure, un po' puzzano. Diversamente da altri leader nordisti, ha compiuto studi regolari. Niente di strano, dunque, se ha saputo riallacciarsi a una tradizione che comincia con il Bellerofonte omerico, prosegue con Perseo, si cristallizza in San Giorgio e raggiunge il culmine narrativo nell'episodio ariostesco di Rinaldo e Angelica. Il fatto che, a differenza della maggior parte dei suoi illustri predecessori, lui faccia strage di Draghi senza nemmeno l'incentivo di una fanciulla da salvare, va solo a suo merito. Agisce esclusivamente per il bene dei suoi concittadini, e come potrebbero questi non essergliene grati? Sarà per questo, suppongo, che lo hanno trionfalmente rieletto. Tutto ciò può suonare un po' buffo. E forse vi chiederete perché mi occupi di un personaggio che, per quanto pittoresco, è considerato di solito espressione di un filone marginale della politica nazionale lombarda. Beh, la risposta è fin troppo facile, perché forse quel filone tanto marginale non è. Noi siamo avvezzi a identificare la destra regionale e cittadina con l'affabilità chiesastica di Formigoni e la sua pronuncia elegantemente blesa, o i puntigliosi compiacimenti di Albertini, due personaggi che si guarderebbero bene da identificare come fa quel manifesto criminalità e disagio sociale, ma preferiscono vantarsi dell'eccellenza del sistema lombardo, della sua funzionalità assistenziale e sanitaria, dell'esemplare solerzia con cui è stato condotto il restauro della Scala e di altri risultati più o meno fantomatici, ma sempre a un alto livello di rispettabilità. I Prosperini restano sullo sfondo a menare la Draghinassa, immuni dal sospetto di rendersi vagamente ridicoli. Ma se poi andiamo a contare voti e seggi, alla fin fine scopriamo che né il devoto Roberto, che pure ha le spalle le schiere cielline, né l'operoso Gabriele, vanto e pupillo dell'imprenditorialità lombarda, potrebbero governare senza quel supporto lì, senza i massacratori di Draghi fittizi e i propagatori di un'intolleranza che di solito si colloca al limite del razzismo, ma ogni tanto rischia di superarlo. E le tendenze che quel tipo di destra esprime non sono semplicemente folcloristiche o strapaesane. Sarà un caso, da cui non si possono trarre conclusioni particolari. Ma l'immagine dei nemici abbattuti ammucchiati ai piedi del guerriero di cui dicevamo dianzi ricorda maledettamente certe foto ricordo scattate nel carcere di Abu Ghraib. Insomma, le elezioni sono andate bene. Probabilmente in Lombardia non si poteva fare di più, non sarò io per una volta a lamentarmi, ma stiamoci attenti perché con certa gente si sa dove si comincia, ma si finisce davvero sempre male.